Allora, questo bandierino che non l'ho scritto io, però mi riguarda molto. Io non sono asociale, semplicemente sono incapace di far finta che mi piaccia parlare con chiunque. Mi riguarda.